Al giorno d'oggi il digiuno è certamente una pratica quasi sconosciuta perché ognuno cerca di mangiare il più possibile. E se anche nascesse il pio desiderio di digiunare, tutte le pressioni fatte da programmi televisivi, da spot pubblicitari, da riviste di ogni genere nell'offrire i piatti più prelibati, respingono ogni buona e cattiva volontà di digiunare. Buona e cattiva volontà di digiunare. Perché non sempre il digiuno è da ritenere giusto. Infatti, come per ogni altra virtù, mettere in pratica il digiuno non è sufficiente. Come per la preghiera. Essa è più che giusta e da incoraggiare. Ma quando si prega per spendere nei propri piaceri, come dice Giacomo, GC 4.3, allora è meglio non pregare. La pratica del digiuno potrebbe anche non interessare il cristiano se non fosse che, in una certa precisa occasione, nel corso di un ragionamento specifico che non vanno dimenticati, Gesù ne ha parlato come una pratica da seguire. Leggiamo nei Vangeli questo episodio e, dopo queste cose, Gesù uscì e vide un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli, lasciata ogni cosa, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un gran banchetto in casa sua, e una grande folla di pubblicani e di altri erano a tavola con loro. Ma gli scribi e i farisei di quel luogo mormoravano contro i discepoli di Gesù, dicendo: «Perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori?» E Gesù rispondendo disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori». Allora essi gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e anche quelli dei farisei digiunano spesso e fanno preghiere, mentre i tuoi mangiano e bevono?» Ed egli disse loro: «Potete voi far digiunare gli intimi amici dello sposo, mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto, e allora in quei giorni digiuneranno». Il C 5.2739. Dunque, gli avversari di Gesù tirarono fuori il discorso del digiuno perché Gesù e i suoi discepoli si stavano rallegrando in un gran banchetto, il che voleva dire che stavano mangiando a sazietà e in più con degli stranieri. La rivalsa degli avversari di Gesù era un poco dettata da invidia nel vedere i discepoli mangiare e bere. Perciò la domanda sul digiuno non era posta con lo spirito giusto. E quando si affronta un argomento senza spirito di carità, il più delle volte, si conclude arrivando a degli estremi. Così, l'argomento del digiuno può essere compreso solo se nell'affrontarlo si è mossi da motivazioni serie, non da malizia o secondi fini. Presso gli ebrei, la pratica del digiuno era un'abitudine millenaria, sfociata in una abituale pratica religiosa formalista, come del resto succede in ogni religione, dove la forma è più importante del contenuto. Infatti, secondo il patto stabilito da Dio, l'ordine del digiuno era relativo a un solo giorno, particolare nel quale il popolo doveva astenersi dal mangiare, cioè quello delle espiazioni, Lev 16.2931, anche se esisteva la possibilità che le autorità religiose decretassero il digiuno per vari motivi. Infatti, dopo che la città di Gerusalemme fu arsa al suolo, dopo che Israele fu deportato lontano dalla sua terra, il popolo faceva cordoglio e digiunava il quinto e settimo mese, ma l'Eterno contestò: «Quando avete digiunato e fatto cordoglio nel quinto e nel settimo mese durante questi 70 anni, avete veramente digiunato per me, proprio per me». Perché tale domanda? Perché il popolo osservava scrupolosamente il rito del digiuno, ricavandole un mero piacere legato alla religione formale, mentre dimenticava le cose più importanti, al punto che l'Eterno Dio aggiunse nella sua protesta: «Amministrate fedelmente la giustizia e mostrate ognuno verso suo fratello bontà e compassione. Non opprimete la vedova e l'orfano, lo straniero e il povero, e nessuno macchini nel suo cuore del male contro il proprio fratello». Era questa la volontà di Dio e non tanto il digiuno. Zac 7.1.14. Dio voleva principalmente una giustizia sociale e degli intenti puri nell'agire. Stessa cosa avvenne al tempo di Gesù, quando i farisei, spinti dalla loro formalità religiosa, erano meticolosi nelle cose insignificanti, Gesù disse: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché calcolate la decima della menta, dell'aneto e del comino e trascurate le cose più importanti della legge. Il giudizio, la misericordia e la fede, queste cose bisogna praticare senza trascurare le altre». MT 23.23. Le cose indispensabili per Dio sono le virtù dello Spirito Santo e non una rigida osservanza alle leggi. Perciò è più importante amare il prossimo, vivere per fede e non osservare nessun digiuno, che digiunare e non osservare le virtù cardinali, quali la fede, l'amore e la speranza. Questa è la quintessenza di ogni riflessione in merito al digiuno. Coloro che si pongono domande in merito al digiuno dovrebbero prima esaminare se mettono già in pratica i frutti dello Spirito Santo. Cosa si intende per digiuno? Sembra una domanda superflua, ma con il passare del tempo ho compreso che l'ovvio non è sempre ovvio. Il vocabolario spiega che il digiuno è l'astensione dal cibo, intenzionale o per necessità, oppure privazione di qualcosa che si desidera. Che il digiuno sia l'astensione dal cibo, lo sanno tutti, e per questo forse è l'altro aspetto il più interessante. Innanzitutto, per chi non ha una certa conoscenza della cultura ebraica, occorre specificare che per un ebreo digiunare un giorno consisteva nell'astenersi dal mangiare a pranzo o durante il giorno, come del resto fanno i musulmani, che hanno una cultura orientale, durante il Ramadan. Mangiano solo quando è oscuro, al punto da non riuscire ad infilare un filo nella cruna di un ago. Infatti, quando Davide digiunò per l'uccisione ingiusta del valorosissimo capitano Abner, non mangiò fino a sera. 2 Sam 3.35, vedi anche 1 Sam 14.24, 2 Sam 1.12, Esdra 9.45. Inoltre, per digiuno si intende anche ogni forma di privazione volontaria di qualsiasi cosa lecita per uno scopo maggiore, sia fisico sia spirituale. Il tutto fatto in segreto. IMT 6.18. Quando lavoravo in una ditta di carpenteria meccanica pesante, decisi di digiunare per il benessere del mio corpo e, dato che il lavoro richiedeva grandi energie, per non cadere in qualche estremo, decisi di astenermi dal cibo il venerdì sera. Il sabato mattina non facevo colazione senza tanti sacrifici, per poi arrivare a mangiare a mezzogiorno, cioè dopo 24 ore di astinenza dal cibo. Esistono però tante forme di digiuno, come privarsi di alcune ore di sonno per pregare o leggere la parola di Dio, oppure limitare certi svaghi, come la televisione o le passeggiate. Anche astenersi da alcuni leciti rapporti sessuali, 1 Cor 7.5, o da cibi prelibati, sono forme di digiuno. In definitiva, il corpo e la mente hanno le loro lecite esigenze, ma fino a quando non sappiamo dominarli, non sono dei validi strumenti per il regno di Dio. Perché il digiuno possa essere efficace, non deve essere un'osservanza religiosa abitudinale, dato che Dio non ha bisogno di pratiche religiose, ma deve avere almeno lo scopo di dimostrare a noi stessi che non siamo schiavi di ciò che è terreno. Non si digiuna per essere graditi a Dio, offrirgli qualcosa di meritevole, perché se così fosse, disprezzeremmo l'opera di Cristo in virtù della quale il credente è già accettato a Dio. Ma l'astensione volontaria a vari piaceri può renderci più attenti alle cose di Dio che non vediamo. Come disse Gesù, il sabato, cioè la regola, è fatto per l'uomo, e non l'uomo per il sabato, il che vuol dire che ogni legge deve essere osservata per il nostro bene. Un qualsiasi digiuno volontario che procura qualsiasi danno fisico o morale non proviene da Dio. Per qualcuno il digiuno del cibo costituisce un problema perché ha paura di non riuscire o di andare incontro a disturbi fisici. Se appena salta un pasto sente subito dei disagi al corpo, cosa succederà se fa un digiuno prolungato? Occorre spiegare meno, dato che tutti non lo hanno compreso, meno che i morsi della fame non sono solo segnali naturali leciti del corpo, ma sono anche un'abitudine. Ho compreso questo, guardandomi attorno. Chi mangia a mezzogiorno prova i morsi della fame a mezzogiorno. Chi mangia all'una sente il bisogno di mangiare all'una, chi mangia alle due ha i morsi della fame a quell'ora. Proprio per questa abitudine io sento i morsi della fame dalle 17 alle 18, mentre altri fino alle 20 di sera non avvertono nessun sintomo. Il nostro corpo è abitudinario, e chi è estraneo alla pratica del digiuno, all'inizio proverà mal di testa o forti crampi allo stomaco, ma questi sintomi sono da ritenere leciti e normali, e per nulla preoccupanti. Per iniziare ad imparare a fare un digiuno alimentare, sarebbe saggio iniziare in quei giorni che per vari motivi non ci si sente in forma e non si ha un gran desiderio di mangiare. Se non si è in preda a concupiscenze, il digiuno risulterà senza difficoltà e sarà un trampolino di lancio per compiere veri e propri digiuni. Per quanto mi riguarda, il digiuno non è mai stato un problema, perché oltre a non essere schiavo del piacere del cibo, anche se ho sempre mangiato molto volentieri e per questo alcuni hanno pensato che fossi un ingordo, la vita cristiana che Dio mi ha donato è sempre stata cosparsa da vari e innumerevoli digiuni. Non vedevo l'ora di riposarmi dopo una giornata faticosa passata in fabbrica. Ed ecco una telefonata, nella quale mi si chiedeva di fare una improvvisa visita. Oppure per i vari impegni nel regno di Dio, saltavo la cena per essere pronto e preparato di fronte a chi si aspettava da me una riflessione sulla parola di Dio. Evangelizzare, insegnare, svolgere il proprio compito è possibile solo se il nostro corpo è messo sull'altare di Dio come un sacrificio vivente. Questo è il punto. Per chi offre in sacrificio cruento la propria vita, il digiuno non è più un problema, perché è un sacrificio vivente e una continua rinuncia, cioè un digiuno che si realizza momento per momento. Del resto questo è il cristianesimo. Gesù disse: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. Prenda ogni giorno la sua croce e mi segua». Bill C. 9.24. Questo vuol dire non un digiuno nella vita, ma una vita di digiuno, cioè di rinunzie. A questo punto non mi pongo più il problema se digiunare, quando digiunare, come digiunare, ci pensa Dio. Aprile 2011, Ellero.